impatto, supera un impatto, falla Toni Costo, falla Toni Costo, falla Toni Costo, falla Toni Costo. Fui io sempre, anche se costasse contro corrente. Vedere nel fare quello.